feeling down, grab your purse and take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be. We will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what? This could all go so wrong, but we're so happy, yeah, we're so happy. Let the love tear us apart, I've found the cure for a broken heart. Let's tear us apart. Virgin Radio. Virgin Radio. Chip is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be. Follow them, maybe on tomorrow, but if we are Party. Torna tra poco su Virgin Radio. Ci sono tre motivi per cui adoro fare il turno di notte al Virgin Motel. Uno, non potrei mai fare un lavoro regolare e alzarmi presto al mattino. Odio il suono della sveglia. Due, perché anche se siamo in mezzo al deserto, al centro del nulla, beh, il mondo passa di qua. Tre, perché adoro l'umanità folle che si ferma qui, si affitta una stanza per una, due notti e poi riparte. Magari un giorno vi ritroverete a passare di qui e allora... beh, allora ci incontreremo. Virgin Motel con Ottaviano Bleach. Ma chiamatemi pure Bleach. Virgin Motel. Giovedì e domenica alle 22 su Virgin Radio. È contro questa ingiustizia, giovani di tutta Italia, che dobbiamo rimanere uniti. Perché se un giovane italiano decide di partecipare alla maratona più grande del mondo, deve mettersi lo zaino in spalla, prendere un aereo e atterrato a New York rischiare l'indigestione da triplo cheeseburger. Mentre se un giovane newyorkese vuol bersi una birra da urlo, gli basta scendere al bar sotto casa e chiedere una nastro. Nastro azzurro. C'è più gusto essere italiani. Devono venire a prendersela! Virgin Radio Charts Compilation. In un'unica compilation, i 20 brani più trasmessi da Virgin Radio.